Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata da Davide Paolini. Siamo in mezzo a una fiera con tanti agenti che cercano lavoro, speriamo che lo trovino tutti. E noi qui oggi parleremo di un argomento molto particolare, parleremo di uno dei più straordinari prodotti italiani, dell'olio d'oliva extravergine soprattutto, ma poi faremo anche una puntatina sull'olio di palma, quindi faremo veramente una giornata a tutt'olio, ma parleremo anche dei recenti provvedimenti che hanno così in un certo senso direi colpito, ma secondo me in maniera positiva, il consumo dell'olio d'oliva extravergine nei ristoranti per questo provvedimento anti-rabbocco. E parleremo anche dell'annata disastrosa di quest'anno appunto dell'olio d'oliva. Chi si avvicinasse al tavolo oggi per mangiare si ricordi di consumare con molta attenzione l'olio e di tenerlo come un grande valore, perché il prossimo anno sicuramente già da quest'anno quindi comincerà il prezzo dell'olio d'oliva extravergine a crescere e quindi cominceranno anche forse ad uscire anche magari delle magagne, delle importazioni che arrivano dai paesi terzi. Bene, io voglio cominciare questa trasmissione. Innanzitutto ho qui con me due amici che staranno con noi durante la trasmissione, Giovanni Fiorin, manager di Pisacco Dry Turbigo, e Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, con cui dialogheremo su questi argomenti. Ma cominciamo con Giovanni Fiorin, appunto ristoratore, al quale chiedere: ma è arrivata questa legge anti-rabbocco per cui voi ristoratori non potrete più servire in tavola un olio che non abbia un tappo speciale? E perché è stato messo questo provvedimento? Semplicemente per evitare che venisse fatto un rabbocco con oli inferiori o con oli non garantiti o con oli che arrivano da altri paesi. Quindi, in poche parole, una vera e propria truffa. Allora, Fiorin, cosa succede? L'olio arriva già con questi tappi anti-rabbocco oppure i produttori di olio sono ancora indietro e non hanno ancora questo tappo? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Innanzitutto iniziamo col dire che è da un po' di tempo, è da qualche anno che si parla di questa normativa e adesso ci si trova a doverla affrontare. Io acquisto olio extravergine d'oliva in quantità importanti da molto tempo e devo dire che alcuni produttori si sono adeguati, altri sono un po' indietro. Certo è che la mia visione di questa nuova condizione nella quale si trovano è abbastanza complessa, perché comunque è un investimento importante e, come giustamente dicevi tu, è molto probabile che dall'anno prossimo il costo dell'extravergine in bottiglia sarà destinato a salire. Dico in bottiglia perché per noi che compriamo quantità importanti, compriamo anche latte da 5 litri e per quello non c'è nessun tipo di la legge non riporta nessun tipo di cambiamento. Nel senso, continueremo a comprarle così come sono. Continuiamo in questo nostro viaggio. E allora io chiedo a Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, che fa moltissime battaglie appunto a favore del consumatore, voglio chiedere: ma questo rabbocco, Roberto, porterà veramente una garanzia nella ristorazione, nelle pizzerie, nei bar, in tutti i locali dove viene esposto sul tavolo la bottiglia che si versa quell'olio che è scritto nell'etichetta? Secondo me il provvedimento che è stato preso è così, molto generico, non è certo il provvedimento che serve all'olio di oliva italiano extravergine, perché non è importante mettere extravergine di oliva nella bottiglietta che viene portata a tavola quando costa 3 euro al litro, ovvero sia il prezzo di 2 litri di latte fresco di alta qualità. Uno ci può mettere l'olio d'oliva, ma costa lo stesso 3 euro, non è molta la differenza. Il problema è cosa porti a tavola, la qualità del prodotto che porti a tavola. Allora, il tappo antirabbocco è sì un provvedimento, secondo me, interessante, ma non così sbalorditivo. L'aspetto sconvolgente è che venga adottato e ci si dia tempo 2 settimane alle persone di mettersi in regola, quando non esistono sul mercato tanti tappi antirabbocco, ci si poteva pensare. A quanto un po' pare prima. C'è solamente un'azienda italiana che lo produce, questo tappo antirabocco, quindi ci vorrà del tempo. Però diciamo, qual è la reazione dei ristoratori? Abbiamo sentito Fiorin, ma io leggo un comunicato che è stato emesso proprio ieri dalla FIPE Toscana, che è alquanto, secondo me, come posso dire, non dico pericoloso, però è veramente molto provocatorio. Dice: affrontare il problema con il tappo antirabocco al ristorante è un'azione di depistaggio che contrasteremo in ogni modo. Stiamo valutando di intraprendere iniziative clamorose come quella di togliere l'extravergine dal tavolo, mettendolo a disposizione solo su richiesta. I nostri fornitori devono capire che le relazioni di filiera si costruiscono nel rispetto del nostro lavoro, non chiedendo leggi a nostre spese. Bene, mi sembra veramente che sia molto provocatorio. Cosa ne pensi, Roberto? Dico che alla fine veramente è una posizione che poco conta. Io ho assaggiato pochissime volte dell'olio extravergine eccellente al ristorante. Una volta ho provato poi a chiamare la casa, costava 15, volevo comprarlo, ero in Toscana, costava 15 euro al litro. Cioè, il rabocco è una cosa che non conviene neanche fare, insomma, è una cosa abbastanza minima, secondo me. Bene, quindi io vorrei ricordare che in Spagna questo provvedimento è partito dal 1 gennaio del 2014, quindi è una norma comunitaria, vogliamo ricordarlo, non è una norma solo italiana, ed è, c'è un dai e vai che dura su questo provvedimento da tanti anni. Sono 3 anni che se ne parla, sì, no, quindi le lobbying hanno lavorato in questi anni pro e contro. Alla fine è avvenuto il provvedimento, perché certo, ci dobbiamo adeguare alle norme comunitarie. Anche se lo faranno solo gli italiani e gli spagnoli, secondo me, per fortuna, però... Certo, bene, Giovanni, quindi voi aumenterete i prezzi, perché qua sembra addirittura che per questa cosa bisogna aumentare i prezzi, e mi sembra veramente ridicolo questo fatto. Davide, secondo me, ed è questo il modo in cui abbiamo agito anche prima che questa normativa entrasse in vigore, abbiamo stabilito un rapporto di fiducia con il nostro fornitore. Come giustamente tu hai detto, abbiamo 3 ristoranti a Milano e abbiamo un fornitore unico con il quale fin dall'inizio siamo stati chiari. Sapevamo che questa regola, che questa nuova normativa sarebbe entrata in vigore a breve, e di conseguenza ci siamo ma in realtà non è che ci siamo tutelati noi. Il punto è che esiste e deve esistere una filiera della fiducia, e cioè chiunque venga da noi deve comunque comprendere che il nostro lavoro lo facciamo onestamente, e di conseguenza noi dobbiamo avere la stessa sensazione con i nostri fornitori, ed è questo quello su cui ci siamo tutelati. Questo per dire che l'azienda con la quale lavoriamo, con la quale abbiamo un ottimo rapporto fiduciario, è già pronta per adeguarsi. Non aumenteremo il prezzo dell'olio. Bene, io credo che ancora una volta in questo paese, appunto, questi provvedimenti vengono presi all'ultimo momento, vengono comunicati all'ultimo momento, così molti produttori di olio, perché io ho già sentito molti produttori di olio, e poi li sentiremo nel corso di questa trasmissione, ho già sentiti tanti i quali si trovano in grande difficoltà, non hanno questo tappo antirabocco da mettere alle loro bottiglie, quindi avverrà, come dicevo, ancora una volta un gran caos. Eccoci di nuovo a parlare di olio d'oliva extravergine in questa annata veramente orribile per la produzione, nonché parleremo anche di questo tappo antirabocco, e abbiamo con noi un ristoratore di Viareggio, un grande ristoratore di Viareggio, Romano Franceschini, del ristorante Romano, che è al tempo stesso produttore di un grande olio extravergine prodotto a Monte Carlo, ma Monte Carlo in Toscana, di Lucca, non Monte Carlo in Francia, e appunto è pure un grande ristoratore che usa molto olio. Allora voglio chiedere a Romano, ma tu sei già, come posso dire, pronto a portare nel tuo ristorante bottiglie antirabocco, oppure ancora l'antirabocco è così nel libro dei sogni? No, può andare bene usare le bottiglie normalmente, non c'è nessun problema. Come normalmente? Ma tu hai già il tappo antirabocco, quindi? Beh, dicevo, si può cominciare ad usare le bottiglie col tappo antirabocco. Sì, certo. Comunque anche ora usiamo le bottiglie confezionate. Ho capito, ma quindi questo provvedimento che prevede un tappo speciale appunto a partire dal 10 di questo mese ancora voi ristoratori ancora non, praticamente non lo conoscete, non lo adoperate ancora? No, ho capito. Non l'ho ancora viste, ma appena si prenderà l'olio nuovo e... Beh, io credo... useremo quello, non credo che ci siano difficoltà, insomma. Sì, però c'è questo provvedimento, poi sentiremo anche con il capitano Braturlon dei NAC di Roma, sentiremo un secondo appunto da quando cominceranno i controlli. Ma Romano, io a te voglio chiedere un'altra cosa, quest'anno è stata un'annata terrificante per l'olio, tutti... Sì, un po' un disastro. Un disastro. Ecco, qual è la riduzione del tuo olio? Quanto in meno? Beh, io a Monte Carlo non ho raccolto per niente, perché le olive cadevano già a settembre. E, però qualche cosa in Toscana, anche a Lucca, qualche cosa hanno raccolto. Ho potuto già assaggiarlo anche abbastanza bene. Ora comunque, prima di fare acquisti, vedremo insomma anche altri oli di altre regioni. In piccole quantità mi parlano di Puglia, Sicilia, Liguria. Ecco, ma secondo credo te credo che qualche cosa si possa fare. Metteremo anche una scelta di olio, il cliente può preferire l'uno o l'altro, insomma. Senti Romano, ma secondo te, che sei un produttore, quanto può costare una bottiglia di olio d'oliva extravergine oggi, diciamo, con questa annata davvero terrificante? Ecco, quanto può costare un minimo di costo per dire bene, sono sicuro di prendere un olio d'oliva extravergine, perché tu andrai a comprare quest'anno olio di altre regioni e quindi di altri produttori. Secondo te qual è il minimo di spesa? Ma io credo che se si va a vedere le spese che ci vogliono per fare l'olio, dovrebbe costare, ora dico un'esagerazione, ma anche 20 euro al chilo. Quindi, cioè, diciamo che molto olio che si trova in giro sicuramente... Ma sai, il mercato, anche parlo fino all'anno scorso, anche ai frantoi in Lucchesia, e costava sui 10 euro al chilo, Ho capito, ti ringrazio. Il mercato è un po' quello. Grazie Romano Franceschini, ma io voglio passare la palla proprio su questo argomento a Roberto Lapira, perché Roberto Lapira ha scritto un articolo appunto dando un minimo di costo dell'olio d'oliva extravergine su una bottiglia di 0,750. Al litro, non so. Al litro. Allora, il discorso è che il raccolto italiano è disastroso quest'anno, che l'olio 100% italiano non è proprio il migliore, perché si prevedono circa 200.000 tonnellate e solo la metà diventerà extravergine. Non è un granché, ma i costi sono schizzati alle stelle, per cui il 100% italiano è diventato una rarità e la qualità non sarà eccellente, ma i numeri sono quelli del borsino, non li ho fatti certo inventati io. Primavera 2010, scrivevamo sul Fatto Alimentare, le nostre voci, Italia 3,60 al chilo. Due settimane fa era 7 e questa settimana credo che sia 6,5. Allora, 100% extravergine italiano. Se ci sono queste cifre qui, quindi tra 6 e 7 euro al chilo, quanto deve essere venduto un olio italiano? E non parliamo di DOP, non parliamo quindi di olio generico. Bisogna arrivare minimo 8 euro. E la qualità è tutta da vedere. Tanto vale, secondo me, quest'anno... Anche l'olio greco è aumentato da 2,80 a 3,4 e anche il tunisino e lo spagnolo. Probabilmente gli oli di Tunisia e Grecia, dove hanno avuto delle annate migliori, saranno quelli che più probabilmente saranno presenti all'interno delle bottiglie. Comunque il discorso non è tanto l'origine, è la qualità del prodotto, che sia italiano, tunisino, greco, spagnolo, quello che conta è la qualità del Bene. Prodotto, non l'origine. Sentiamo Nicola Bovoli, che è un produttore di Vico Pisano, è un attento osservatore del mercato dell'olio. Buongiorno Nicola. Buongiorno Davide, come stai? Bene, bene Nicola. Allora, anno orribile dell'olio d'oliva extravergine, tappo antirabocco, insomma sembra che l'olio veramente quest'anno sia sotto la grandine. Allora voglio chiederti questo, ma olio ce n'è molto meno. C'è pericolo di importazioni, ma non importazioni corrette nel senso di trovare una bottiglia dove c'è scritto olio greco o olio tunisino, ma mescolato all'olio italiano. Allora ti chiedo, per un consumatore che domani va a comprare un olio, e vuole comprare un olio d'oliva extravergine italiano, quale può essere un prezzo minimo? Bah, è molto difficile. Il prezzo minimo dipende, perché guarda, io dico sempre una cosa: sicuramente se compri a un prezzo basso non trovi un buon prodotto, se compri a prezzo alto il prodotto è buono, ma non è detto, normalmente è buono, ma non è detto che sia solo buono, ci può essere anche qualche furbo che mette un prodotto cattivo e lo mette ad alto prezzo. Allora l'unica cosa secondo me è controllare, se DOP, IGP eccetera, questo c'è un controllo maggiore rispetto a un olio di fantasia che magari è a prezzo alto ma che non dà garanzie in termini di provenienza, in termini di diciamo di filiera dell'olio stesso. La cosa da stare molto attenti è sempre guardare l'etichetta, perché l'etichetta italiana deve comunque indicare da dove viene l'olio, o se si tratta di un misto di oli che arrivano da diverse parti. Come detto prima, posso aggiungere solo una cosa: mancava solo la grandine, mancava quest'anno, poi abbiamo avuto di tutto. Comunque, per quanto mi riguarda, devo dare la ferrata notizia che di Vico Pisanolio quest'anno non abbiamo prodotto nemmeno una goccia, e lo ritengo più corretto dirlo in partenza, perché frangere le olive che ci abbiamo avute non ci è sembrato il caso, insomma, ecco, Speriamo, Nicola, che ci siano molti produttori coscienziosi appunto su questo e che non arrivano degli escamotage molto particolari. Però ti voglio chiedere un'ultima cosa: è il tappo antirabbocco. Questa è una bella domanda. Perché, cioè, il provvedimento è già in essere. Sì, quindi, sì. Prima di tutto, tappo antirabbocco. Cioè, la cosa è nata come difendere l'olio di qualità nella ristorazione. Allora, quando 10 anni fa venne fuori questo discorso, io me lo ricordo che ne parlammo anche in Italia, eccetera, io immediatamente misi in produzione bottigliette da 100, che sigillate, che dovevano essere aperte al tavolo. Questa secondo me è l'unica garanzia, perché poi venne fuori il discorso di applicare a una bottiglia bella, elegante, eccetera, un tappaccio che aveva programmato una persona, cioè, che però veramente brutto, tipo non posso fare nomi, tipo liquori da supermercato, insomma, dove c'era il versatore. Cioè tappo a vite forse. Sì, ma no, tappo a vite, vabbè, c'è già, ma era proprio quello che c'aveva dentro la pallina che non veniva fuori. Ah, io ho capito. Posso dare un nome? Quello della gazzosa, quello della gazzosa di tanti anni fa, ho capito, di quella gazzosa che viene lì. Sì, certo. Evitano il rabbocco. Però non è questo, prima di tutto noi dobbiamo far sì che i ristoratori siano un attimo più coscienti, e non è per legge che li si rende coscienti. Secondo, quello che è avvenuto per il vino deve avvenire anche per l'olio. L'olio è buono appena aperta la bottiglia, non mi importa che non ci possa rabboccare o meno. Un olio che rimane in una bottiglia, anche col tappo antirabbocco per 15 giorni, è un olio che non è un olio diverso dall'olio appena aperto. Allora, se i ristoratori cominciassero a pensare che su un pesce che vendono a 45 euro possono aggiungere un euro in più a porzione per dargli un olio come si deve, e dargli una bottiglia da 100 grammi, che aprono al momento, esattamente come si apre il vino al momento, al ristorante, forse avremmo risolto il problema, forse, non lo so, però l'onestà è la base di tutto, anche per i ristoratori. Bene, abbiamo con noi un personaggio che di olio, diciamo, sull'olio ha studiato a fondo, ha indagato. È un giornalista americano di inchiesta ed è Tom Mueller, che ha scritto un libro fondamentale che si chiama Extravirginità. Buongiorno Davide. Tom, di fronte a questa, diciamo, produzione appunto disastrosa di quest'anno, anno horribilis per l'olio d'oliva extravergine italiano, e considerando, diciamo, tutte le truffe che arrivano ogni anno, tu cosa pensi che succederà? Visto che io ho già sentito diversi produttori italiani che mi hanno detto produzione zero, non produrremo una bottiglia di olio. Sì, il problema di base è che l'Italia ha bisogno di 1 milione di tonnellate di olio all'anno, circa 600.000 per consumo interno e 400.000 per l'esportazione. Ora, se non arriva dagli uliveti italiani, arriverà da qualche altra parte. Questo è il problema fondamentale che ogni anno si ripropone, quest'anno con grande insistenza. Ecco, tu che hai indagato profondamente negli anni scorsi appunto con grandi risultati. Ma cosa si potrà fare appunto all'invasione di olio, anche che non verrà dichiarato che olio che arriva dall'estero? Cioè, si potrà fare qualcosa, il consumatore potrà saper scegliere appunto tra olio che sarà vero extravergine italiano oppure sarà olio tagliato con tanti altri oli di paesi terzi dove costa molto meno e dove non ci sono i controlli sulla qualità che ci sono in Italia? Bisogna sicuramente guardare per parole come miscela, che staranno in evidenza sulla bottiglia, ma purtroppo spesso e volentieri un po' in sordina, nascoste. Le autorità sono in grado di controllare e stanno controllando gli arrivi e le esportazioni di olio. Direi che c'è da enfatizzare molto il loro lavoro e dare sostegno ai vari corpi che, devo dire, in questo momento, almeno secondo le mie fonti, sono un po' pessimisti all'atteggiamento dell'attuale governo nei confronti di questo fenomeno e dell'agricoltura in generale. Ecco, tu hai messo il dito sulla piaga anni fa sul discorso dell'olio che arrivava dall'estero, faceva un giro con le navi e ritornava all'estero, cioè tornava all'estero con il Made in Italy dopo un giro di carte. Quest'anno succederà ancora di più, immagino. Sicuramente, adesso i prezzi dell'olio italiano, vero italiano, si aggirano sui 6 euro e passa al chilo, cioè quasi triplicato rispetto all'anno scorso. E arriveranno forse ai prezzi di picco tipo euro 10 euro o oltre. Quindi la voglia di sostituire qualche prodotto non italiano, magari meno buono, c'è sempre e quest'anno sarà molto forte. Senti, si sa che anche in Spagna non è stata una grande annata. Allora a questo punto da dove arriverà l'olio per soddisfare la domanda, direi, internazionale secondo te? Ci sarà qualche altro paese che salterà fuori all'improvviso? Purtroppo ci sono dei grandi stoccaggi, quindi l'olio non mancherà, la qualità sicuramente sì. Ma secondo me la muscoliare e sicuramente il clima avverso hanno causato enormi danni, ma la vera causa della crisi in Italia è il degrado trentennale del mondo oleario in Italia. Cioè proprio questo disastro colpisce una struttura già debole che si arranca. Bene, grazie Tom come sempre, a presto, continua nelle tue ricerche, mi raccomando. Ciao, a presto. A presto. Giovanni Fiorin, prima abbiamo sentito Nicola Bovoli che diceva appunto, dava dei suggerimenti, dice l'olio bisogna versarlo fresco. Io mi chiedo, nelle pizzerie, quelle bottiglie di olio che sono, io credo, dell'era ancora, non dico 1800, ma quasi dove viene aggiunto olio, dove dentro c'è del peperoncino e quindi ormai sono lì, proprio bisognerebbe mettere vintage 1910. Ecco, cosa succederà? Cioè, è vero quello che diceva che bisognerebbe non tanto mettere il tappo antirabocco, ma ogni volta aprire delle bottiglie e versare dell'olio nuovo? Davide, lo spunto di Bovoli è interessante. Certo è che la bottiglia forse da 100 ml è un po' difficile da realizzare, anche perché, adesso non lo so, ma mi sembra che, magari mi sbaglio, ma bottiglie da 100 ml con il tappo antirabocco non credo di averne viste, quindi lì si ripropone il problema. La problematica dell'olio al peperoncino è pazzesca, hai ragione. Io personalmente, parlo per me, ho risolto facendomelo produrre dal mio fornitore. La realtà è che alla fine credo che sia lo stesso Bovoli abbia colto nel segno, parlando del fatto che con le leggi non si fa l'onestà di un ristoratore, è lì la chiave. La filiera della fiducia, che parte dal produttore e arriva fino al cliente che si siede ad un tavolo, è l'unica vera garanzia. Poi, per carità, le regole ci debbono essere e tutti le dobbiamo rispettare, ma la vera, io sarò un po' all'antica, ci sta, però io credo che sia l'unica vera garanzia che ha chi per esempio viene nei nostri locali, anche perché alla fine è vero che il tappo antirabocco non permette a noi ristoratori di fare i furbetti, però alla fine nelle bottiglie con il tappo antirabocco siamo sicuri, e qui mi sembra di capire che il tema è un po' anche quello, che quello che c'è dentro è quello che c'è dichiarato. Bene, allora abbiamo con noi ora una voce nazionale, il presidente dell'Associazione Italiana Frantoi Oleari. Buongiorno Gonnelli. Buongiorno Tony. Si può dare un dato nazionale ad oggi di qual è il calo della produzione appunto nazionale dell'olio d'oliva extravergine, quello previsto in, insomma. Ma noi pensiamo che si attesti intorno al 50% rispetto allo scorso anno. Quindi una cosa veramente, direi, drammatica. Sì, sì, sì. Ma anche purtroppo, purtroppo è così. L'unica regione che ha avuto un calo contenuto intorno al 40% è la Puglia, il resto dell'Italia è veramente stata presa a bastonate nel vero senso della parola. Senta Gonnelli, di fronte a questo calo bisogna fare molta attenzione, immagino, su quello che verrà messo sul mercato. Sicuramente, noi come associazione abbiamo chiesto agli organi di controllo di attivarsi, perché noi non abbiamo niente in contrario, come lei sa, a rioli tunisini, marocchini, spagnoli, greci, per carità, va tutto bene. L'importante è che il consumatore sappia cosa compra e sia messo in condizione di scegliere, che non venga truffato. Questa è la cosa fondamentale. E a proposito invece del tappo antirabbocco, le leggo, ho già letto ma ve lo rileggo ancora, un comunicato fatto dalla FIPE Toscana che dice: affrontare il problema con il tappo antirabbocco al ristorante è un'azione di depistaggio che contrasteremo in ogni modo. Stiamo valutando di intraprendere iniziative clamorose come quella di togliere l'extravergine dal tavolo mettendolo a disposizione solo su richiesta. I calcoli che fanno la FIPE dicono che un ristorante spende mediamente 3.800 euro all'anno per l'olio extravergine destinato alla sala. Quindi di fronte a queste reazioni, che sono un po' reazioni rabbiose di fronte a un provvedimento che è comunitario, io le chiedo l'efficacia del tappo antirabbocco secondo lei? Ma secondo me è fondamentale per garantire ai consumatori. Non vedo perché si debba stappare le bottiglie di acqua al tavolo, si debba aprire il vino di fronte al consumatore e si voglia propinare invece ampolle riempite non si sa con che cosa, bottiglie con un'etichetta che di quello originale, del prodotto originario dentro non c'è rimasto neanche una goccia. Quindi non vedo questa presa di posizione, mi sembra proprio una cosa tanto per contrastare un sistema che fa chiarezza e che garantisce i clienti, i consumatori. Poi se non vogliono portare l'extravergine sul tavolo, a me questo dispiacerà moltissimo, però padroni di farlo, nessuno li obbliga, saranno poi i consumatori a scegliere. Beh, io mi chiedo però quale costo aggiuntivo possa avere, chiediamo a Giovanni Fiorini, quale costo può avere, diciamo, il tappo antirabbocco in ristorante? Può avere un costo verso il ristoratore? Ma Davide, io come ti ho già detto prima, la nostra posizione è quella che non cambieremo assolutamente il prezzo. Ti dirò di più, noi la bottiglia nei nostri tre ristoranti, la bottiglia d'olio in tavolo non la mettiamo, ma perché fa più parte di un'idea, di un concept che sta dietro, non è perché abbiamo non fa parte di una linea di protesta. La nostra linea sarà quella che non aumenterà di sicuro, continueremo a portarla in tavola quando ci viene richiesta, continueremo ad averne due o tre tipi di cui parleremo e avremo il tappo antirabbocco così come la normativa ci richiede, senza aumentare il prezzo. Gonnelli, quali previsioni ci sono di prezzo di un buon olio di oliva extravergine per una bottiglia da un litro nei prossimi mesi? Ma tra i 9, dai 9 euro in su. Quindi diciamo che questo sarà praticamente impossibile trovare prodotto buono, italiano, garantito a prezzi inferiori ai 9 euro. Prego. Ha detto una cosa molto chiara, che l'80% dell'olio che noi consumiamo, che acquistiamo al supermercato, è fatto da blending, è fatto da olio italiano in parte spagnolo, in parte greco, in parte tunisino. Quest'anno l'olio tunisino e l'olio greco sono sicuramente migliori di quello italiano. Il problema riguarda, raddoppieranno tutti i prezzi, questo è chiaro, ma non è che l'olio italiano, quando si parla di 10 euro si parla di olio italiano 100%. Secondo me non vale più la pena di comprarlo. Quando si è detto gli anni passati olio 100% italiano, quest'anno l'olio italiano è mediocre, per cui siccome l'80%, ribadisco, delle bottiglie è fatto di blending, quindi una miscela, ma di tutte le bottiglie al supermercato è fatto di una miscela, i produttori avranno la capacità di miscelare gli oli migliori con gli oli Sentiamo allora Gonnelli, ha parlato, era il direttore di Fatto Alimentare. Lei cosa ne pensa su questo intervento? Ma io non condivido assolutamente niente. Non condivido che gli oli tunisini e spagnoli siano migliori dell'italiano, non condivido il fatto che gli oli italiani siano mediocri, perché qui stiamo producendo degli oli di grandissimo livello in molte zone d'Italia, per cui smentisco decisamente quest'anno, io dico di quest'anno, poi, stiamo parlando di quest'anno, non del mondo, mi scusi. Quest'anno la produzione italiana è disastrosa, la gente non ha raccolto, per cui non mi può dire che l'olio italiano sarà buono. Perché non lo può essere. No, questo lo dice lei, scusi. Ma come lo dico io? Dalla mattina alla sera, se mi permette, saprò riconoscere l'olio buono dall'olio scadente. Assolutamente. Potrei scegliere tranquillamente, vede, il produttore, potrei scegliere tranquillamente di confezionare prodotto straniero. Nessuno me lo vieta, ce lo scrivo in etichetta e lo confeziono. Se reputassi... questo olio all'altezza di competere col prodotto italiano, io non lo ritengo. Ma ci sono gli oli greci di Creta che sono stupendi, cioè guardi che non è l'origine che conta, noi non diciamo che i greci, gli spagnoli, l'ho detto prima, non è che non debbano vendere il loro olio, fanno benissimo a venderlo, lo presentino e dichiarino che olio greco, che olio spagnolo, io parlo frantoi italiani, dichiariamo che è 100% italiano, i consumatori sceglieranno. Non vedo per quale motivo voi dobbiate decidere che quest'olio non va bene. Il ragionamento che faceva prima il ristoratore, cioè quello dell'aumento del prezzo dovuto al costo dell'olio utilizzando bottiglie col tappo antirabbocco, è un non problema, perché un consumatore al massimo utilizza 10-15 grammi d'olio, anche se quest'olio dovesse costare 20 euro al litro, ma incide per 20 centesimi su un piatto, cioè di cosa stiamo parlando? Certo, è questo che non torna. Bene, ecco. grazie Gonnelli, perché si riferiva... Grazie a lei, buona giornata. Si riferiva al comunicato della FIPE. Quindi, allora io ora voglio passare la parola al nostro amico direttore del Fatto Alimentare, perché ha fatto tempo fa una petizione. Stop all'invasione dell'olio di palma. Allora ti do 3 minuti e mi devi dire perché. 7 giorni fa abbiamo fatto questa petizione su change.org insieme a Great Italian Food Trade. Il Fatto Alimentare e Great Italian Food Trade ha fatto questa petizione. Da soli abbiamo raggiunto 48.000 firme in 7 giorni, senza essere promossi da altri. Su change.org si può firmare andando sul sito. Perché? Perché l'olio di palma, che è probabilmente il grasso più consumato dagli italiani, non è conosciuto da nessuno. Perché fino a 7-8 mesi fa non veniva dichiarato in etichetta. Dietro la parola grassi vegetali, olio vegetale, si nascondeva l'olio di palma. Che cos'è questo olio di palma? È l'olio più utilizzato in Europa e in tutto il mondo praticamente, perché costa poco, perché ha le caratteristiche simili a quelle del burro e ha delle prestazioni da un punto di vista tecnologico molto interessanti, per cui riduce i costi. Il problema è che è sempre stato considerato un grasso mediocre. Per questo non è mai stato dichiarato in etichetta. La Nutella nazionale, fatta almeno col 35% di olio di palma. Tutti i biscotti della Molino Bianco, tranne uno, e anche gli altri prodotti, contengono olio di palma. Da qualche mese si può leggere sull'etichetta. Questo è il problema. E l'ultima cosa che voglio dire è che, pur essendo l'olio più consumato, il grasso più consumato dagli italiani, non ci sono studi sul valore nutrizionale e sulla salute. Studi a livello internazionale, ma anche nazionale, dicono di consumare poco olio di palma. La settimana prossima comunque faremo un pezzo più specifico su questo aspetto qui. L'ultima cosa brevissima. In Italia noi abbiamo fatto, sulla base delle informazioni dei lettori, abbiamo calcolato che ci sono circa 100 biscotti che non usano l'olio di palma, 30 merendine e 40 snack salati e non salati. E si tratta spesso di piccole aziende. Per far capire dove è utilizzato l'olio di palma, dappertutto. Bene, grazie. E ora abbiamo con noi il capitano Dario Praturlon, comandante dei NAS di Roma. Buongiorno, capitano. Buongiorno. A lei voglio chiedere questo. È partita questa, provvedimento comunitario antirabbocco e quindi è già in vigore. Io chiedo, saranno fatti subito controlli a tappeto? Ci sono multe particolari, chi non le utilizzerà? Ecco, quali le conseguenze? La conseguenza immediata è l'adeguamento da parte dei ristoratori alla legge, quindi all'applicazione dell'utilizzo di bottiglie che abbiano dei dispositivi antimanomissione di protezione che impediscano il riabbocco dell'olio. Quindi un olio di minore quantità o di provenienza diversa rispetto a quella indicata nei contenitori, nelle etichette delle bottiglie. Questo riguarda non la grande distribuzione, ma riguarda la ristorazione, gli esercizi dove si somministrano i pasti e si fornisce l'olio per i condimenti. E la penale qual è, capitano? No, è una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 8.000 euro. Ora la normativa appena entrata in vigore chiederà, sebbene data il 25 novembre sia valida, chiederà un tempo di adeguamento anche culturale da parte degli esercenti. Ma credo anche da parte dei produttori, perché i produttori credo che non siano ancora pronti. Sembra che questo tappo sia prodotto da un'azienda solo e quindi non in quantità tale da poter garantire immediatamente, diciamo, rispettare questo provvedimento. E questo è un problema commerciale. La normativa si sapeva che sarebbe entrata in vigore. Anzi, le dico di più. La legge entrata in vigore il 25 di novembre, in realtà è un'integrazione a una legge che già era entrata in vigore a gennaio del 2013, dove si irrigidivano, si rafforzavano le misure per impedire che si utilizzassero le oliere o dei dispositivi che poi permettessero comunque un riapporto. Quindi è un'integrazione, un rafforzamento. Forse ha fatto comodo a livello commerciale attendere il giorno stesso che è stato in vigore della legge per presentare il problema, però dal 25 di novembre è obbligo utilizzare dei dispositivi di protezione antiriabbocco. Bene, in questo paese in cui si rottama tutto, si rottameranno le oliere da le oggi. Le oliere non si dovevano usare, comunque. Non si dovevano già usare, è vero. Un'ultimissima cosa, un minuto, anche se è poco per la domanda che le faccio. La produzione di olio è calata drasticamente, si sa, il 2014, la mosca, il clima e tante altre cose. E si prevede un'invasione di olio straniero, quindi voi siete pronti ai controlli? A livello commerciale si parla già che 2/3 dell'olio venduto in Italia è provenienza estera, quindi l'invasione forse è già a conti fatti. Però non è che dobbiamo criminalizzare l'olio estero, l'importante è che venga venduto come olio estero di miscele di olio comunitari e extracomunitari. Quindi è importante la legalità e la trasparenza di presentazione del prodotto. Molto spesso però si possono trovare delle difficoltà. Diciamo, 15 giorni fa siamo sequestrati in provincia di Salerno, presso un alivito dove abbiamo sequestrato 1.500 litri di olio, che in realtà veniva comprato dalla grande distribuzione in bottiglie da 2 euro al litro, veniva poi le bottiglie venivano svuotate nelle latte da 3-5 litri e poi veniva venduto come produzione propria a 5-6-7 euro al litro. Incredibile. Quindi le frodi già sono in atto. Bene. E i nostri controlli sono già rafforzati. Bene, io la ringrazio, capitano, della sua chiarezza. E bene, abbiamo concluso questo viaggio tra l'olio e le oliere e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre domenica alle ore 12. Grazie a Roberto Lapira e a Giovanni Fiorini di essere stati qui con noi. Buon appetito a tutti e attenzione, usate poco olio perché poi costerà molto caro.